Proviamoci domani a Portofino, sul tardi quando il giorno morirà. Ti prego non mancare, qualcosa può accadere e forse il nostro amore nascerà. Nell'ombra della sera Portofino e tra la folla anonima d'un bar, parlando sottovoce in quella strana luce, staremo in cella luna ad aspettare ed il mare che al cuore degli amanti sa parlare, ci dirà che amar non è peccato, se può dar felicità. Domani se tu vieni a Portofino, potremo un dolce sogno incominciare. Al cuore non mentire, ti prego non mancare, troviamoci domani a Portofino. Ti prego non mancare, non farmi sospirare, troviamoci domani a Portofino.